Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. ...1937, Los Angeles. Nel pieno della Hollywood classica, il regista William Wyler sta girando un film che si intitola, prendendo spunto da un passo della Bibbia, Jezebel. Racconta la vita della ribelle e orgogliosa Julie Marston, che nella New Orleans della metà del XIX secolo si scontra apertamente con la mentalità conservatrice dell'alta società della zona, provocando chi la circonda con risposte fuori luogo e abiti giudicati poco rispettabili. Per non lasciare dubbi sulla vicinanza della trama con il celebre Via col vento, che pure sarebbe uscito un anno dopo, la traduzione italiana diventa La figlia del vento. Well, did you come up here just to stand there? Julie, how long must we go on like this? Like what, Chris? Fighting, fussing all the time like a couple of children. Why do you treat me like a child? Because you act like one, a spoiled one. You used to say you liked me like that once. You never wanted me to change. Remember? La figlia del vento è Bette Davis, la diva reduce da un Oscar guadagnato con Paura d'amare. Il suo compagno di scene, che interpreta il fidanzato Press Dillard, combattuto tra la modernità delle sue frequentazioni e le pressioni del suo ambiente d'origine, è Henry Fonda. Fonda viene dal teatro, ha fatto qualche film, ma non è ancora l'attore affermato che conosciamo, volto e anima di capolavori del cinema. I due lavorano insieme per mesi, è una sontuosa produzione in costume, vanno molto d'accordo. Finché un giorno, alla fine di dicembre, abbandona improvvisamente il set e prende il primo aereo per New York, lasciando Bette Davis sola a girare alcune scene parlando con una parete vuota. È uno dei tanti aneddoti di Hollywood, ma perché Fonda sia scappato senza avvisare nessuno non è mai stato un mistero. Non si sarebbe perso per niente al mondo la nascita della sua primogenita, Jane Fonda. Jane Fonda. And please welcome Jane Fonda. Crescere con un padre ingombrante come Henry Fonda è nello stesso tempo una fortuna e una maledizione. Chi è figlio d'arte si ritrova spesso combattuto tra l'approfittare delle porte aperte del genitore illustre e il rinnegare pubblicamente un nome per dimostrare prima a sé e poi agli altri di potercela fare camminando solo con le proprie gambe. Jane Fonda è riuscita a fare tutto, celebrare un padre mitico e diventare un'icona lei stessa. Film entrati nella storia del cinema, libri che hanno venduto migliaia di copie, sfilate con i più importanti stilisti al mondo. E poi due attività apparentemente impossibili da conciliare, il fitness e l'impegno politico. Tutto quello che Jane Fonda ha fatto e continua a fare nella sua vita le è riuscito magnificamente, come quando nel 2005 è l'esilarante e perfida futura suocera di Jennifer Lopez in Quel mostro di suocera. Cosa fai? Mi comporto bene. No, no, non puoi! Charlie, allergica alle mandorle! No! Oh! Oh! Viola, sei pazza! Alzati! Metti giù quella salsa, lo dico a Kevin! Sì! Ma dov'è la tragedia? La faccia le si gonfierà un pochino! Le si gonfierà un pochino, e allora? Le si gonfierà un pochino, si gonfierà come una mongolfiera! Meglio, corrisponderà alle altre parti del corpo. Viola, pensa a quello che stai facendo! Dai, la ragazza si sposa domani! Ruby, da quando hai perso gli artigli? Da quando tu hai perso la testa! Gli inverni newyorkesi sono molto rigidi e quando Lady Jane Seymour Fonda viene alla luce il 21 dicembre del 1937, suo padre ha qualche problema ad arrivare a New York da Los Angeles per via delle condizioni atmosferiche. Sta girando La figlia del vento con Bette Davis, ma non può perdersi per niente al mondo la nascita della prima figlia che sua moglie, Frances Ford Seymour, gli sta dando. È già stato sposato con Margaret Sullivan, un matrimonio lampo durato solo un anno dal 31 al 32, ma quando ha incontrato Frances, una bellissima ragazza dell'alta società canadese, non ci ha messo molto a chiederle la mano. Subito hanno avuto Jane, bellissima, sempre sorridente, una bambina abituata fin dalla culla ad essere circondata da persone. La mia è anche una storia di uomini. Non sarei quella che sono se non avessi incontrato gli uomini della mia vita, nel bene e nel male, e prima di tutti mio padre. Non mi sono mai posta il problema di cambiare il mio cognome per non essere associata a lui. Chiunque ci avrebbe collegati immediatamente soltanto guardandoci in faccia. Stessi tratti, inconfondibili. Frances Ford Seymour è una donna bellissima e abituata al lusso. Cresciuta in una famiglia ricchissima, con un matrimonio fallito alle spalle, ha sposato Henry Fonda per amore, ma dopo poco tempo è già insoddisfatta. Non sono solo capricci, soffre di gravi disturbi mentali che la portano ad essere triste fino alla depressione e che più avanti sfoceranno in vera e propria malattia. Frances è troppo in preda al dolore per dedicarsi ai suoi figli. E nel 1950, quando Jane ha 13 anni e suo fratello Peter, anche lui diventato attore 10, si suicida. Henry si ritrova da solo con due figli da crescere e non trova altro modo che quello di essere severo. Se già non è mai stato particolarmente espansivo e ha sempre fatto fatica a dimostrare il suo affetto, con la morte di sua moglie si chiude ancora di più, comportandosi in maniera decisamente distante dalla sua pia immagine cinematografica. Ho sofferto fin da bambina per la freddezza di mio padre. Era una persona distante, con improvvisi scoppi d'ira, incapace di mostrare emozioni e una vera intimità con chi l'amava, per colpa dell'educazione repressiva subita in famiglia. Per lui mostrarsi vulnerabili era segno di debolezza. Non si può dire che sia solo colpa del carattere di suo padre, anche se questo può aver spinto in quella direzione. Fatto sta che Jane è già da ragazzina incline alla ribellione. Rifiuta qualsiasi forma di autorità, è nevrotica, aggressiva, soffre di disturbi alimentari. Ha raccontato di essere diventata bulimica dopo un commento non troppo lusinghiero sul suo fisico da parte di suo padre. Che l'aneddoto sia vero o trasfigurato dal passare del tempo, di certo Jane ci ha messo anni per arrivare ad accettare il suo corpo, dichiarando solamente oggi che ha passato i 70 di aver fatto pace con se stessa. Invecchiare è difficile per tutte le donne, a prescindere da quello che fanno. Ma io non mi sono mai vista particolarmente bella, quindi non guardo indietro e dico «Oddio, ho perso la mia bellezza». Sono molto più felice adesso, ho le mie rughe, ma si impara a smettere di cercare la perfezione. Ho 70 anni e il pieno controllo della mia vita. Spero che questo dia speranza a tante donne. Il tempo appiana tutto, anche i rancori nei confronti del suo duro eppure amatissimo padre. È proprio Jane che nel 1981 si ritrova in mano la sceneggiatura di Sul lago dorato e decide di produrre la pellicola. Per Henry Fonda questo film diventa l'ultimo di una lunga carriera, l'unico nel quale abbia lavorato con sua figlia e il suo solo premio Oscar. Vicino alla fine della vita di mio padre, ho avuto per le mani una commedia che si chiamava Sul lago dorato. Due cose mi colpirono subito. Che se ne poteva fare un bel film con lui come protagonista, in modo che avrebbe potuto ottenere il suo primo Oscar. E poi che mi avrebbe dato l'opportunità di lavorare con lui nel nostro rapporto come padre e figlia. Così ho prodotto il film per lui. È stata un'esperienza magica. Katharine Hepburn mi ha insegnato molto su di me. Era un personaggio difficile, un po' ruvida, ma straordinaria. 5 mesi prima di morire, mio padre vinse l'Oscar, ma era troppo malato per riceverlo e così sono andata a prenderlo io. Quando glielo portai, chiesi a mio padre come ti senti e lui tipicamente disse «Sono molto contento per Kate». I tupoli stanno insegnando al loro piccolo a volare. Non è emozionante? Senti questa. Cercansi pensionati per consegna volantini. Camminando, si intende. So camminare, non ti pare? È per questo che sei tornato correndo fin qui. Per leggere tutti questi maledetti annunci. La bellezza di Jane Fonda non è convenzionale. È slanciata, ha lunghi capelli chiari, ma il suo spirito ironico la porta spesso a sembrare buffa, oltre che carina. All'inizio non sembra molto interessata a voler seguire le orme di suo padre, ma presto, forse proprio perché Henry Fonda cerca in tutti i modi di tenere i suoi figli lontano da Hollywood, decide di provare a fare la modella. Il sex appeal è uno stato mentale, è tutto nel cervello, l'organo più sexy. Comunque dipende da come ci sentiamo con noi stessi. E di sicuro essere sempre ossessionati dalla conquista non fa bene. L'ho capito tardi, ma sono felice di averlo capito. Fly me to the moon and let me sing among the stars. L'infanzia di Jane Fonda non risponde propriamente alla definizione di serenità. Un padre freddo e distante, anche se portatore della solidità del tradizionale capofamiglia. Una madre depressa che finisce per suicidarsi, tagliandosi la gola con un rasoio il giorno del suo compleanno, quando lei ha soltanto 13 anni. È questo l'ultimo ricordo che i suoi figli hanno di lei. Ci sono cose nella vita che non dimentichi mai, che ti sembra di aver vissuto il giorno prima, per quanto restano vive nella tua memoria. Io amavo mia madre. Solo col tempo ho imparato a perdonarla per averci lasciati. Non posso neanche lontanamente immaginare tutto il dolore che aveva dentro. A suo fratello Peter, Jane è legatissima. Litigano, ma non possono stare lontani per troppo tempo. E se qualcuno osa dire qualcosa sull'altro, si difendono a vicenda con gli artigli. Il giorno del suo compleanno, come fosse una beffa del destino, Peter ha un grave incidente con un'arma da fuoco. Si spara accidentalmente nello stomaco e sopravvive per miracolo. Per sua sorella è il secondo terribile incontro con la morte, e quando il pericolo è passato il suo rapporto col fratello diventa ancora più stretto. Hanno pochi anni di differenza, crescono insieme, giocano da bambini, si confidano da grandi, passano moltissimo tempo a inventarsi storie da mettere in scena, emulando papà. Curioso che nessuno dei due, almeno all'inizio, pensi seriamente di fare l'attore, perché invece è quello che entrambi faranno con grandissimo successo. Peter nel 1967 scrive e interpreta Easy Rider, il tutto insieme a Dennis Hopper. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura. Dopo aver completato gli studi al Vassar College, Jane Fonda decide che la sua strada è fare la modella. Non perché abbia particolarmente stima del suo fisico, semplicemente perché trova sia il modo più facile per lasciare l'America e andare alla scoperta del mondo. È curiosa, affamata di vita, non si accontenta di frequentare intellettuali, artisti, industriali dell'elite newyorkese, amici di suo padre. Vuole capire a fondo se stessa camminando con le sue gambe. E così, per prima cosa, va in Europa. Le dà fastidio quando chi la incontra le chiede subito di suo padre, ma sa che non può farci niente, è la figlia di un mito. Nel rapporto di amore e odio con lui, l'amore vince e si tiene con fierezza quel cognome così importante. Uno dei vantaggi nell'essere famosi è il fatto che spesso i momenti speciali vengono immortalati da un fotografo, il che significa che hai delle immagini straordinarie. Ironica, intelligente, Jane si accorge presto che il ruolo di modella non rende giustizia alla sua complessità di donna. Non ci sta a passare per la bambolina che non parla, e quando sceglie di esserlo è consapevole di portare una maschera. Gli altri possono cadere in inganno, ma lei, anche da giovane, ha ben chiaro chi è. Ritorna negli Stati Uniti nel 1958 e dopo aver accettato ancora qualche sfilata, soprattutto per dimostrare a suo padre che può guadagnare da sola i soldi che le servono per mantenersi, capisce che vuole studiare seriamente recitazione. Decisivo, come per molti altri colleghi, è l'incontro con Lee Strasberg, direttore del celeberrimo Actor Studio. Sono andata all'Actor Studio e Lee Strasberg mi chiese di provare a recitare un pezzo. Senza lasciarmi finire mi disse che avevo talento, vero talento. Era la prima volta che qualcuno me lo diceva, ed era un mostro sacro a dirmelo. Mio padre mi diceva solo che ero una buona nulla. Sono andata a letto pensando che era un segno del destino, e mi sono svegliata convinta che avrei fatto l'attrice. È stata la prima svolta della mia vita. La seconda sarebbe arrivata qualche anno dopo, e avrebbe davvero cambiato la mia vita per sempre. L'Actor Studio non è una scuola qualsiasi, è la più prestigiosa scuola di recitazione al mondo ed esiste dal 1947. La sua sede è New York, nel cuore della 44esima strada, e tra i suoi fondatori c'è il regista Elia Kazan. Da qui, nel corso degli anni, sono usciti talenti del calibro di Robert De Niro, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Tom Hanks, Al Pacino, Meryl Streep, solo per citarne alcuni. L'insegnamento si basa sostanzialmente sul metodo Stanislavski, poi portato avanti proprio da Strasberg, che è costituito da poche regole, semplici solo in apparenza. Chi le applica in modo corretto diventa un numero uno. L'interprete non deve essere né finto né falso. La massima dote è la credibilità. L'attore deve avere il massimo controllo del suo corpo, delle sue emozioni e delle sue reazioni. La personalità, i sentimenti e i pensieri del personaggio sono da ricercare in se stessi. L'attore deve annullarsi completamente nel personaggio fino ad assumerne l'identità più intima e diventare l'immagine riconosciuta al di là del film stesso. Jane Fonda si allena ogni giorno. Quelli che sembrano esercizi semplici si rivelano veri e propri scogli non soltanto professionali, ma anche esistenziali. Fare l'attore, diventare qualcun altro, significa per prima cosa conoscere bene se stessi. Per Jane studiare con Strasberg è come una seduta dall'analista, solo molto più divertente. Ma è sufficiente essere attori bravissimi per diventare dei divi? Il destino di Jane Fonda sembra suggerire un'altra ipotesi. A destini incrociati siamo alla fine degli anni 50 e Jane Fonda sta studiando recitazione con il maestro Lee Strasberg, che all'Actor Studio porta avanti la lezione del metodo Stanislavski. Figlia del grande Henry Fonda, divo interprete dei capolavori del West, Jane ha avuto un'infanzia difficile. Padre distaccato e incapace di manifestare il suo affetto, una madre con gravi problemi mentali che si suicida quando lei ha 13 anni. Con suo fratello Peter il rapporto è speciale ed è soprattutto a lui che pensa quando, decisa a fare la modella mentre studia arte, si trasferisce in Europa per poi tornare a New York e decidere di seguire le orme paterne. È proprio l'incontro con Strasberg a essere illuminante. La realtà vive nell'attore. Stanislavski diceva sempre che l'attore non recita le parole ma i sentimenti, perché la parte è fatta non di parole ma del sottofondo affettivo. È quella la parte nascosta da scoprire dell'attore. Finora i contatti diretti di Jane con la recitazione sono stati decisamente amatoriali. Le storie western improvvisate con suo fratello in cameretta per emulare le interpretazioni di papà e un'apparizione nel 54 a una serata di beneficenza presso la comunità Omaha Playhouse. Il suo debutto vero e proprio arriva nel 1960 con In punta di piedi, accanto ad Anthony Perkins. Seguono durante gli anni 60 alcuni altri titoli: il drammatico Anime sporche del 62, La caccia del 66 di Arthur Penn, accanto a Marlon Brando e Robert Redford. Ma è nelle commedie che dà il meglio di sé. Una su tutte, A piedi nudi nel parco, nel quale è la divertente mogliettina di Robert Redford. Chi veramente mi preoccupa sei tu. Io? Io? Sì, comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'. Perché? Perché mi piace portare i guanti d'inverno? No, perché non c'è spirito d'avventura in te. Lo sai che cosa sei, Paul? Sei uno che guarda. Uno che guarda. A questo mondo c'è chi guarda e c'è chi fa. E chi guarda sta seduto a guardare gli altri che fanno. Beh, stasera tu hai guardato e io ho fatto. Ho sofferto più io a guardare quello che facevi tu che tu a fare quello che guardavo io. Brava e brava, Jane, e unisce alla bellezza da ragazza della porta accanto quella leggerezza che la rende perfetta per le parti più ironiche. Ma ancora non ha spiccato il volo, il grande salto deve ancora arrivare. Nel frattempo, nel 65, si è sposata con Roger Vadim, il playboy francese che ha lanciato Brigitte Bardot, sua ex moglie. Vadim è un regista di medio talento, ma di grande intuito. Don Giovanni impenitente ha sempre mescolato vita privata e lavoro, chiedendo alle sue donne di recitare nei suoi film. La prima è appunto Brigitte Bardot. Segue Annette Stroiberg, dalla quale ha una figlia, Nathalie. Dalla sua lunga relazione con Catherine Deneuve ha un altro figlio, Christian. Ed è proprio Jane Fonda, sua moglie per pochi anni a partire dal 65, a dargli Vanessa. Sono innamorati. Lui dichiarerà che è stata Jane, l'unica donna che ha davvero sentito la voglia di sposare, e ne fa la protagonista delle sue pellicole del periodo. Il piacere e l'amore, versione dell'omonima opera di Max Ophuls, che si rivela un grosso successo di cassetta, pur senza essere all'altezza dell'originale. La calda Preda, tratto da Zola, e poi quell'efficacissimo mix di sesso e fantascienza che lancia Jane tra le icone del secolo. Eppure non è grazie a Vadim se Jane Fonda diventerà per tutto il mondo Barbarella. Quando nel 1968 Roger Vadim decide di girare un film di fantascienza, tratto dal fumetto Barbarella di Jean-Claude Forest, ha bisogno di una protagonista bella e sfrontata, in grado di interpretare avventure, anche erotiche, ambientate in un lontano futuro, nel 40.000 DC. Offre la parte a Virna Lisi, che però rifiuta sia perché sente che il ruolo non fa per lei, sia perché non vuole allontanarsi per troppo tempo dall'Italia. E così chiede a sua moglie, Jane Fonda. Il matrimonio è già in crisi per i continui tradimenti di lui, ma lei, che in America sta girando pellicole di successo medio, accetta la sfida. Dino De Laurentiis, produttore della coproduzione italo-francese, fa le cose in grande e non risparmia un centesimo affinché il film diventi un grande successo. Ecco perché, per realizzare gli abiti di scena, che devono essere allo stesso tempo futuristici e sexy, chiama un enfant terrible della moda spagnola, Paco Rabanne. Paco Rabanne. Non mi considero un futurista, ho cercato solo di essere un contemporaneo. Io parlavo a un pubblico che era 60 anni indietro, amavano Dior, Saint Laurent, Givenchy, l'arcaismo. Io però non volevo fare l'archeologo, ma il couturier. Con i miei abiti ho voluto solo rendere lo spirito del mio tempo. Chiunque deve avere un'ossessione. La mia è stata quella di essere rappresentativo dell'epoca, usando i materiali e le tecniche più attuali. Francisco Rabanne da Cuervo nasce nel 1934 nei dintorni di San Sebastián, Paesi Baschi. Sua madre fa la caposarta alla Maison Balenciaga e lui fin da bambino adora farsi insegnare i trucchi del mestiere. Quando ha soltanto 5 anni, lei decide di scappare dalla guerra civile, mette poche cose essenziali per tutti e due in un sacco e si rifugia in Francia. Francisco Rabaneda, cuore e anima spagnolo, ma francese d'adozione, si farà presto conoscere come Paco Rabanne. Se c'è una cosa che Paco e Jane, sua futura musa, hanno in comune, è l'istinto di ribellione, quell'anticonformismo di natura che li porta a voler sempre agire di testa propria, senza preoccuparsi troppo del giudizio degli altri, anzi spesso proprio per provocarli, gli altri. Rabanne è un bravo studente, grande amante del bello. Con la complicità di sua madre passa le giornate in giro per le strade della città a guardare le vetrine. Poi insieme i due tornano a casa e copiano i modelli che hanno visto esposti. Ridono, si divertono, ma per Paco è tutto ancora un bel gioco. Non avevo ancora in mente di fare lo stilista. Certo, mi affascinava il mestiere della mamma e la pregavo di farmi vedere i cartamodelli, ma ero soltanto un ragazzino. Parigi è un sogno per Paco Rabanne. Ci arriva per studiare all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts e se ne innamora. I grandi viali alberati, le boutique d'alta moda, i venditori di cartoline lungo la Senna. Tutto gli sembra infinitamente bello. Predisposto al disegno tecnico, ma con una creatività senza confini che ha sempre sorpreso i suoi insegnanti, si è iscritto alla facoltà di architettura, strizzando sempre l'occhio al mondo dell'arte. La moda è un'arte, ma un'arte minore. Ci sono la pittura, la scultura, l'architettura, io sono architetto, come arti maggiori. La moda non è fra queste. Sottolinea qualche cosa che fa da contrappunto a quello che succede, ma è la moda che è influenzata dalle altre arti e non viceversa. Nei primi anni 60 Paco Rabanne incomincia a creare bigiotteria per le grandi case di moda del momento, Balenciaga innanzitutto, per la quale anche sua madre aveva lavorato come sarta, e poi Nina Ricci, Maggie Ruff, Philippe Venet, Pierre Cardin, Courrèges, Givenchy. Immediatamente i suoi gioielli vanno a ruba, anche se ancora non ne fanno un couturier. Finché nel 1966 lancia la sua prima collezione, un manifesto di intenti dal titolo provocatorio che ben racconta il suo spirito e il suo futuro lavoro. 12 abiti impossibili da portare, fatti di materiali contemporanei. Sono effettivamente vestiti impreziositi da paillette e targhe, poco gestibili nella vita di tutti i giorni. Il suo talento, però, e il suo essere completamente fuori dagli schemi attirano l'attenzione di pubblico e critica. Lo scandalo, si sa, spesso paga, soprattutto se non è inventato a tavolino. E Rabanne, di finto, non ha nulla. La sua ribellione è vera, istintiva, fa parte di lui. Gli applausi non lo addolciranno mai. Sarà sempre l'enfant terrible spagnolo della moda francese, ma con l'incredibile capacità di precorrere i tempi. Ecco perché, per sfondare davvero, ha bisogno di una donna che sia come lui, ironica e senza freni. Jane Fonda. Finché ci sarà una donna, ci sarà la moda. Speriamo che nel futuro ci siano ancora dei creatori capaci che sappiano renderle onore. Quello che detesto della moda di oggi sono tutti questi stilisti che imbruttiscono le donne, le fanno sfilare con abiti distrutti, il trucco colato. La cosa più importante per me è quella di rendere la donna sempre più bella grazie a un vestito. Per quanto riguarda il futuro, adesso usciamo da un'epoca barocca e stiamo entrando in un periodo più avanguardista, che poi si trasformerà in classico, che verrà nuovamente spiazzato dal barocco. È un ciclo continuo, come nell'arte. Figlio di una sarta di Balenciaga, ha respirato fin da piccolo l'aria degli atelier per poi studiare architettura a Parigi. È ribelle, appassionato, si diverte a provocare. Ci mettono poco nell'ambiente a definirlo enfant terrible. Dopo collaborazioni con diverse maison per le quali ha disegnato bigiotteria, lancia nel 1966 la sua prima collezione di abiti che lui stesso definisce importabili e fatti di materiali contemporanei. La moda è fatta per stupire. Non serve semplicemente per coprirsi. C'è una grande differenza tra l'anticipare le tendenze e cogliere gli umori di una società attraverso una collezione di abiti e vestire la gente. È sempre la prima cosa che mi ha interessato. Nel 1968, sullo sfondo della contestazione che sta invadendo il mondo, il regista francese Roger Vadim decide di fare un film che di politico non ha proprio nulla, Barbarella. La trama, tratta da un fumetto di fantascienza, non potrebbe essere più semplice. Barbarella è incaricata dal presidente della Terra di ritrovare lo scienziato Durand Durand, scomparso misteriosamente. Nel percorso che intraprende per portare a termine la sua missione, avrà numerosi incontri con alcuni personaggi. Il personaggio dell'eroina tutto pepe, che verrà interpretata da Jane Fonda, moglie di Roger Vadim, dovrà essere ad alto tasso erotico. Ma come creare un mix perfetto tra fantascienza ed erotismo? Servono i costumi giusti e la produzione si rivolge al ragazzo che ha appena fatto scalpore con i suoi mini abiti fatti di dischi di alluminio, Paco Rabanne. Ho capito subito che mi sarei divertito un mondo. La prima volta che ho incontrato Jane siamo rimasti a parlare per ore. Abbiamo riso come due vecchi amici. Avevamo le stesse idee sul mondo e volevamo tutti e due che Barbarella diventasse una star. Succede davvero. O meglio, il film, realizzato con grande dispiego di mezzi, è sostanzialmente un flop sia di pubblico che di critica. Ma presto, attraverso il passaparola prima e il boom dell'home video poi, diventa un vero e proprio cult. Jane Fonda nella scena iniziale compare nuda in assenza di gravità e i titoli di testa provvedono a coprire quello che non può essere mostrato. Per tutto il film si aggira fasciata in body di lattice con il reggiseno a punta, stivali che arrivano a metà coscia, calze look vedo non vedo. Le immagini del film fanno il giro del mondo e fanno di lei molto più di una star, un'icona indimenticabile. I materiali plastici e i mini abiti di Paco Rabanne, che tutti conoscono grazie a Barbarella, sono il must degli anni 70. Pezzi fatti a mano una tantum, materiali riciclati e le più azzardate sperimentazioni caratterizzano tutta la produzione di Paco Rabanne. Avere Jane Fonda come testimonial è stata decisamente la svolta della sua vita. Paco Rabanne, tra abiti e profumi, non si ferma davanti a nulla e ottiene un successo planetario con le sue provocazioni futuristiche che non avrebbero potuto trovare traino migliore di Jane Fonda nei panni di Barbarella. Metallo, alluminio, jersey, ma anche pellicce a maglia, abiti di carta, vetro o pelle fluorescente. E oggi la sfida continua. Prima di tutto, per me è importante stupire me stesso. C'è solo un materiale che non ho ancora usato, il gas ionizzante che giri tutto intorno a una donna. Non sarebbe male. Se Barbarella è il punto di svolta umano e professionale per Paco Rabanne, lo è anche per Jane Fonda. Intrappolata in un matrimonio che la fa sentire una bambola, con il film che la fa diventare un sex symbol, si accorge che anche questo può minacciare le sue potenzialità. Non che si vergogni di Barbarella o la rinneghi, anzi, ne va molto fiera e non ha paura ad ammettere che il suo successo si deve soprattutto agli abiti che Paco Rabanne ha disegnato apposta per lei. Solo che in questo periodo cerca qualcosa di diverso. Il mondo sta cambiando e sente che non può stare a guardare. Così, come ricorda Oriana Fallaci, fa uscire l'altra Jane. Di colpo il suo aspetto cambiò, capelli castani e tagliati in ciocche disordinate, maxi cappotti aperti su un paio di blue jeans e una maglietta stinta, il piccolo pugno levato nel gesto delle pantere nere. Ha scoperto un modo per non annoiarsi, smetterà presto, osservai. Invece non la smetteva e a ogni pretesto attaccava le autorità costituite, la società che le aveva dato tanti e dolci privilegi. Pagando di persona, ecco il punto. Un giorno seppi che aveva preso l'Oscar, un altro giorno seppi che Henry Fonda la definì la mia cosiddetta figlia. Un altro giorno seppi che Vadim si era preso un'altra compagna, perché era molto difficile essere sposato con Giovanna d'Arco. E infine seppi che, come Giovanna d'Arco, rischiava il rogo. All'aeroporto di Cleveland era stata arrestata con la falsa scusa di possedere un enorme quantitativo di droga. Il tipico sistema per eliminare chi dà molta noia. Dopo Barbarella, la vita di Paco Rabanne e di Jane Fonda non sarà più la stessa. Mentre lui, celebrato in tutto il mondo, membro della Camera Sindacale della Moda, annuncia il suo ritiro dalle scene nel 1999, dopo una carriera sfavillante, lei cambia pelle continuamente. Da quando la chiamano Hanoi Jane per la sua propaganda filo nord-vietnamita durante le proteste contro la guerra in Vietnam, non trascura mai il suo intenso e appassionato impegno politico che continua tuttora. Ma trova anche il tempo, negli anni Ottanta, per diventare il guru dell'aerobica, inventandosi una nuova e fortunatissima carriera. Vince due Oscar, il primo nel 71, nei panni della prostituta Brie Daniel in un asquillo per l'ispettore Clute, il secondo nel 78, per Tornando a casa di Al Ashby. C'è qualche talento speciale che riesce a fare tutto. E per fare qualsiasi cosa servono gli abiti giusti e molta follia.